America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, giornata storica per gli Stati Uniti d'America. Barack Obama giurerà fedeltà alla Costituzione fra poche ore e darà così l'avvio al suo secondo mandato. Ecco, è una giornata questa che, devo dire, si sviluppa sotto buoni auspici, perché è stato evitato nel corso del fine settimana il pericolo che gli Stati Uniti potessero fallire da qui a un mese. I repubblicani infatti hanno fatto marcia indietro sulla questione del tetto sul debito, lo hanno prorogato di 3 mesi, hanno accettato la posizione del presidente Barack Obama, il quale chiedeva appunto che questi due momenti politici, un negoziato per tagliare le spese, ridurre il disavanzo, e invece l'approvazione di un nuovo tetto sul debito, fossero separati. Dunque una buona giornata per Barack Obama sotto ogni punto di vista. Ecco, nel momento in cui riflettevo su questa giornata, che poi seguiremo e di cui vi racconteremo anche domani, mi è venuta una curiosità. Come l'avrebbe descritta questa giornata Ugo Stille? Perché mi è venuta questa curiosità? Perché è uscito in Italia in questi giorni un libro, La forza delle cose, scritto dal figlio di Ugo Stille, Alexander Stille, che racconta la vita di questo straordinario personaggio, uno dei più grandi giornalisti italiani, corrispondente storico del Corriere della Sera proprio qui dagli Stati Uniti d'America, devo dire anche collega, abbiamo lavorato insieme in alcune occasioni. E lui è un personaggio straordinario e nelle pagine di questo libro ho ritrovato, devo dire, grandi emozioni, storie, nuovi sviluppi, un personaggio contraddittorio. E ho con me ai microfoni di America 24 Alexander Stille, l'autore del libro, appunto il figlio di Ugo, professore di giornalismo internazionale alla Columbia University, autore di numerosi articoli per il New Yorker, per la Repubblica. Buongiorno Alexander. Salve. Alexander, giro a te la domanda che mi veniva così spontanea, immaginando questa giornata straordinaria, immaginando come avrebbe vissuto tuo padre questo momento. Dire che avrebbe avuto due reazioni diverse: uno, apprezzamento per la capacità dell'America di trovare nuove leve di nuove risorse per la sua popolazione, ma anche era una testa dura che guardava ai risultati dei politici. Avrebbe visto lì un record più misto per Obama. Tu dai, Alexander, una descrizione brillante della storia di tuo padre. È un immigrato ebreo di origine russa, scappato dalle persecuzioni fasciste, arrivato in America, si sposa con un'americana che poi diventa tua madre. Una storia straordinariamente affascinante di queste dinamiche familiari che poi ha le sue radici appunto nella vecchia Russia. Però poi tuo padre a un certo momento, dopo essere stato in Italia da ragazzo, è tornato in Italia come direttore del Corriere della Sera. Ecco, e secondo te che giudizio avrebbe dato oggi della situazione politica italiana? Probabilmente molto scettico, un po' pessimista. Politicamente si sarebbe sentito più vicino a qualcuno come Monti, però lui sarebbe un po' preoccupato dalla incapacità della politica italiana di esprimere risposte chiare dalle lotte interne tra i partiti, da una difficoltà nel rinnovarsi dal punto di vista generazionale. Vorrei tornare a questo punto al libro e a quello che tu descrivi, al tuo lavoro, perché tu dai una descrizione straordinaria, affascinante, una storia bellissima, si legge, devo dire, molto bene questo tuo libro, però esprimi anche dei giudizi che sono, diciamo, brutalmente onesti della vita privata di tuo padre, e quindi racconti di liti con tua madre, di un carattere a tratti difficile. Ecco, mi ha colpito perché, come sai, io ho conosciuto bene tuo padre e forse ero più vicino a quell'immagine pubblica che tu descrivi, che è un'immagine simpatica, vivace, intellettualmente stimolante. Ho avuto però la sensazione che qualcuno nella stampa italiana, così facendo recensione del tuo libro, abbia dato una interpretazione un po' forse eccessiva, non lo so, per questo te lo chiedo, che sembra quasi che è negativa, ecco, come se ci fosse un aspetto negativo che tu esprimi di tuo padre. È vero o no? Soltanto in parte, perché direi le prime recensioni peccavano forse nell'altro senso, costruivano un monumento a mio padre, facevano omaggio a mio padre e trattavo questo libro come una biografia di mio padre, il grande giornalista. Non è questo, è un libro credo più complesso e spero più interessante. Non avevo né l'intenzione di fare un libro agiografico su mio padre né di demolirlo. per cui un po' in reazione a queste recensioni un po' semplicistiche, Gad Lerner, la Repubblica, ha scritto una recensione che ha enfatizzato l'aspetto negativo, le difficoltà di mio padre, il suo carattere non facile, litigi tra lui e mia madre, tutte cose vere, ma dentro il libro sono anche intrecciate con molti altri filoni e quindi in un tentativo, credo, onorevole di capire anche le radici di questi suoi aspetti difficili. E tu pensi, non nascondendo assolutamente niente, per cui non mi riconosco né nelle recensioni che fanno di mio padre un grande santo, né di quello che mi scrive come un diavolo. Senti, secondo te Gad forse pensava di trovare in te un complice che li facesse da sponda per questo libro feroce che ha scritto su suo padre? Certamente ognuno porta qualcosa di se stesso quando legge il libro di qualcun altro, è un fenomeno fisiologico normale, per cui Gad con molta sincerità, quando l'ho visto alla presentazione di Milano, si è immobilizzato con il libro e con questo aspetto del libro, avendo un rapporto molto molto difficile col proprio padre, ha voluto sottolineare questo aspetto, per cui mentre lui descrive il libro come lacerante, invece è un libro molto molto divertente, spesso leggero e piacevole nella sua lettura, insieme a passaggi piuttosto scuri, piuttosto anche difficili. Ecco, Alexander, ci sono mille rivoli in questo tuo libro, ci sono tre matrimoni, tre generazioni diversi, c'è tuo padre in pigiama che scrive gli articoli fino alle 4 del pomeriggio, tuo padre che va alla mensa del Corriere della Sera cogliendo un po' tutti di sorpresa, e soprattutto c'è tua madre, c'è un filone femminile importante, tua madre che in fondo è una femminista ante litere. Ma io vorrei chiudere con te per chiederti, in fondo c'era un rapporto difficile, erano due caratteri diversi, due persone diverse, però nonostante i litigi e le incomprensioni, sono rimasti sposati fino alla fine, è una storia di successo in fondo. Successo forse eccessivo, sinceramente, era un matrimonio estremamente difficile e non nascondo il fatto che uno dei motivi per cui ho scritto il libro è che da bambino loro mi lasciavano estremamente perplessi, spesso mi sono chiesto ma come mai queste due persone così diverse si sono trovate e perché sono rimaste insieme, e la domanda rimane senza risposta chiara. Sta di fatto che mio padre adorava mia madre e ne parlava sempre bene, mia madre diceva sempre cose terribili su mio padre e il loro matrimonio, ma fatto sta che sono rimaste insieme, non credo soltanto per ragioni di convenienza o pigrizia. Mia madre diceva a un certo punto, in momenti meno negativi, ha detto almeno io non mi sono mai annoiata. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, inaugurazione del presidente americano. Molti cantanti che fanno la contorno a questa celebrazione che è cominciata già ieri, continua oggi. Una delle canzoni più belle, quella di Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered. I thought I read it this mean. Yeah, didn't I? Oh, babe. Seen a lot of things in this old world. When I touch the bed, it's nothing, girl. Ooh, babe. Here I am. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Ah, I'm yours. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!